Capitolo 22. Anversa. 20 maggio 1538. Un puttaniere. Il re di Munster un magnaccia. Eloy per un attimo perde la condiscendenza a cui mi ha abituato. Per la prima volta sembra non riuscire a credermi. Lo rassicuro. Se la leggenda lo ha dipinto come un re terribile e sanguinario, sappi che ciò corrisponde al vero. Ma né prima né dopo il nostro ingresso a Munster, Jan Bokelson di Leida fu mai niente di diverso da ciò che era sempre stato. Un attore, un saltimbanco, un magnaccia. E naturalmente un profeta. Questo rende ancora più grottesco l'epilogo della nostra vicenda, poiché l'attore dimenticò di recitare e confuse il canovaccio con la vita vera. La farsa diventò tragedia. Eloy è a disagio. Ridacchia per superare lo stupore. L'epopea anabattista e le leggende dei nemici hanno fatto di noi dei mostri d'astuzia e perversione. Beh, in realtà questi erano i cavalieri dell'Apocalisse. Un fornaio profeta, un poeta pappone e un reietto senza nome, in fuga da sempre. Il quarto fu un invasato puro, Peter da Otsager, uno che aveva cercato di farsi frate, ma era stato respinto per la violenza delle sue parole. Investiva la gente per la strada. Le visioni che evocava erano fitte di sangue e sterminio, unica giustizia del Signore. Poi la famiglia Buckbinder fornì alla banda di Mattis un altro congiunto, il giovane Bartholomeus, che ufficialmente risultava essere mio cugino e che si unì a noi nell'autunno del 33, insieme ai due fratelli Quipper, Wilhelm e Dietrich. Convincemmo anche un uomo pacato e pio come Hobbe Phillips e ad Amsterdam Otsager battezzò un altro adepto, Jacob van Kampen, e così i discepoli del grande Mattis raggiunsero il considerevole numero di 8. Rainer van der Hulst e i tre fratelli Brunt, ragazzi che ancora puzzavano di latte ma con delle mani come badili, agganciarono la brigata dalle parti di Delft, negli ultimi giorni di novembre del 33. Quasi senza accorgercene, eravamo diventati 12. Fu un segno più che sufficiente per il nostro profeta. Gli si poteva leggere nello sguardo che stava progettando qualcosa. Del resto, intorno a noi, il mondo sembrava davvero sul punto di esplodere. Le nostre parole non mancavano mai l'effetto voluto. Non eravamo che una banda di spostati, attori, folli, gente che aveva lasciato lavoro, casa, famiglia per darsi alla predicazione in nome di Cristo. Scelte compiute per i motivi più diversi, dal senso di giustizia all'insofferenza per la vita a cui si era condannati, ma che portavano alla stessa conclusione, a un atto di volontà che coinvolgesse quanta più gente possibile, che dimostrasse agli uomini come il mondo non sarebbe potuto durare così all'infinito e molto presto sarebbe stato messo a rovescio da Dio in persona. O da chi per lui, vale a dire noi. Ecco perché eravamo quelli che potevano davvero far saltare tutto. Obbedivate agli ordini di Mattis? Seguivamo le sue istruzioni. Eravamo in perfetta sintonia e in più il nostro profeta era tutt'altro che stupido. Sapeva valutare gli uomini. Aveva in grande considerazione il mio parere. Si consultava spesso con me, mentre preferiva usare Jan di Leida come ariete. L'attitudine teatrale di Jan tornava utile e anche la sua bellezza non guastava. Era giovanissimo, ma appariva già un uomo maturo, atletico, biondo, un sorriso allucinato che faceva breccia nel cuore delle ragazze. Mattis aveva preso a spedirlo in giro oltre confine, nei territori imperiali, assaggiare il terreno, mentre Outsager continuava ad agire nei sobborghi di Amsterdam. Sul finire del 33, Mattis ci divise in coppie, proprio come gli apostoli, e ci diede l'incarico di annunciare al mondo, a nome suo, che il giorno del giudizio era imminente, che il Signore avrebbe fatto strage di tutti gli empi e che soltanto pochi si sarebbero salvati. Saremmo stati i suoi alfieri, i messaggeri dell'unico vero profeta. Ebbe parole dure, anche se non ingrate, per il vecchio Hoffman, imprigionato a Strasburgo. Questi aveva previsto il giudizio per il 33. L'anno stava finendo e ancora niente era accaduto. L'autorità di Hoffman era destituita di fatto. Non parlò di armi. Non saprei dire se ne parlò mai. Non disse nulla riguardo al coinvolgimento degli apostoli nella battaglia del Signore e non so se già allora meditasse questa soluzione. Per quanto vedevo eravamo tutti disarmati, tutti eccetto me. Avevo ridotto la vecchia spada ritrovata nella stalla dei Buckbinder, ricavandone una daga corta, un'arma più agile e familiare, che potevo tenere nascosta sotto il mantello e che mi faceva viaggiare più tranquillo. Feci coppia con Jan di Leida per volere dello stesso Mattis. La mia determinazione e la sua presa sulle platee. Una combinazione perfetta. Non mi dispiacque affatto. Bokelson era un tipo con cui non mi sarei mai annoiato. Imprevedibile e folle al punto giusto. Ero certo che avremmo fatto grandi cose. Fu allora che per la prima volta sentii parlare di Münster, la città in cui i battisti facevano udire forte la loro voce. Jan Delayde era passato di là poche settimane prima e ne aveva riportato un'ottima impressione. Il predicatore locale, Bernard Rothman, aveva stretto amicizia con alcuni missionari battisti seguaci di Hoffman e riscuoteva grande successo presso la cittadinanza tenendo testa a papisti e luterani insieme. Münster fu inclusa nell'itinerario che avremmo compiuto. «Foste tu e Bokelson i primi ad arrivare?» «No, per la verità no. Una settimana prima di noi erano arrivati Bartholomeus Boekbinder e William Kuiper. Erano ripartiti, non prima di aver ribattezzato più di 1000 persone. L'entusiasmo in città era alle stelle e al nostro arrivo ne avemmo subito un saggio impressionante».